sera nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 22 marzo, il sole in regione sorto alle 6.06 e tramonterà alle 18.23. Martedì c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. I primi contraccolpi della crisi da coronavirus stanno investendo anche il mondo dell'agricoltura, con problemi su molte filiere produttive, cui si aggiungono le difficoltà della logistica. Ne parliamo nel servizio di apertura, mentre a seguire il corsivo di Enos Costantini, che ci dà considerazioni e consigli per ottimizzare questi giorni che dobbiamo passare a casa. Ritornando ai problemi causati dalla pandemia, nella rubrica delle normative abbiamo tutte le contromisure messe in campo da governo e Unione Europea, a seguire tutte le accortezze per le scelte varietali per il nostro uliveto domestico o commerciale che sia, e una scheda su Villa Stoinhoff a Valvasone con il suo curatissimo giardino e orto annesso. Dall'Università di Udine arrivano le novità della ricerca e creazione di nuovi kiwi. Prima di passare all'andamento dei mercati, le previsioni del tempo per la prossima settimana e il proverbio friulano della luna. Anche se un po' in ritardo rispetto a tutti gli altri settori, anche quello dell'agricoltura comincia a patire gli esiti della crisi coronavirus. Oggi ne parliamo con Elsa Bigai, che è il direttore del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia, una realtà di distribuzione e logistica strategica per tutto quanto si fa in campagna nella nostra regione. Quali sono i principali problemi? Ci diceva il latte. Diciamo che sono due tipi di problemi, uno proprio legandoli strettamente agli agricoltori e alle loro produzioni è appunto il latte. Noi tra l'altro raccogliamo il latte e trasformiamo anche avenzone in formaggio. A livello regionale ci siamo anche confrontati con l'assessore e gli altri trasformatori piccoli e grandi. Abbiamo almeno il 25-30% del latte che subisce che cosa? Il contraccolpo della chiusura di tutti i punti della ristorazione. È scattata anche una rete per cercare di collocare ovviamente questo latte, ma questa è una vera emergenza perché, come sappiamo, il latte è un prodotto freschissimo. Logistica. La logistica tra l'altro ha una doppia criticità, sia per chi deve esportare, quindi penso ai tantissimi produttori che hanno vino o altre merci per restare nel nostro settore. Nel nostro caso notiamo, i primi giorni era un po' meno così, il prodotto sta arrivando, ma arriva, come dire, non magari un prodotto oggi, un altro domani, non in maniera coordinata, organizzata, come ormai tutti eravamo abituati. Perciò è molto importante in questo momento, lo voglio dire, in questo caso mi rivolgo agli agricoltori, con calma, prima di tutto telefonare perché non serve muoversi e non è uno stop commerciale, è una necessità organizzare il prelievo delle merci anche in maniera un po' anticipata. Voi avete anche un settore che si occupa di florovivaismo, come sta andando? Allora noi abbiamo i punti vendita che naturalmente sono aperti perché hanno oltre la parte agricola anche tutta la parte per i piccoli animali d'affezione. E naturalmente ci sono piantine da orto e fiori, riportando a noi e agli agricoltori che ci stanno dietro della filiera florovivaistica posso solo dire che è un tracollo totale, perché immaginate se le piantine da orto e le ha fatte un agricoltore o la filiera agricola non le pianti adesso, cosa te ne fai? Egualmente un fiore eccetera ce l'hai lì, vabbè, li stiamo bagnando, e quindi è vero però che c'è il tema della necessità alimentare, ma è altrettanto vero che qui come dire, si è passati da 100 praticamente a zero. Dal suo osservatorio vede qualche caso di speculazione? Ma dal nostro osservatorio cosa vediamo? Non la speculazione in loco, ma fenomeni speculativi sì. Cosa intendo? Ad esempio noi abbiamo anche il mangimificio. Il mangimificio sta continuando a produrre, materie prime naturalmente si trovano, quindi intendo dire mais e soia, ma se hai delle necessità magari di qualche prodotto particolare che non è di origine italiana, parlo ad esempio anche di microelementi e quant'altro, al di là della difficoltà di farli arrivare, stiamo vedendo che i trend della quotazione anche delle materie prime stanno aumentando, come ad esempio la diminuzione fortissima del prezzo del petrolio. A parità di periodo il carburante agricolo ha un prezzo oggi inferiore dell'anno scorso, intendo, del 20-25%. Dato che si deve restare a casa per unire l'utile, il giusto al dilettevole, fatevi l'orto e anche allevate quattro galline. Il consiglio e monito del corsivo di oggi di Enos Costantini. Il Candido di Voltaire si chiude con un consiglio da autentico filosofo. State a casa e coltivate l'orto. Oggi lo dicono in tanti, il virologo, lo psicologo, lo pneumologo, l'oncologo, l'infettivologo, il dietologo e il cuoco. Fate l'orto, ripetono, e tenetevi quattro galline. Dopo la Seconda Guerra Mondiale ci siamo salvati, per quello che permettevano i tempi, grazie alle vacche, all'orto e al pollame. Ora abbiamo la bomba atomica, ma non serve a nulla contro entità nanometriche, che non sono neppure una cellula. La zappa, al contrario, è uno strumento innovativo ad altissimo contenuto tecnologico e non è neppure a obsolescenza programmata. Gli animali da compagnia non si possono mungere e non fanno uova. I gadget elettronici non profumano di polenta. Sfruttiamoli però i social. Un vicino, ad esempio, fa girare un tutorial su come si piantano le patate. Le avanguardie di questa nuova orticoltura già si scambiano le sementi lanciando sacchetti zavorrati oltre la siepe del funebre Lauro Ceraso, oltre il muretto che garantiva non si sa quale privacy e ora dovrebbe fare da barbacane a ogni mefitico miasma. La urbanizzazione di ispirazione veneto-californiana, con le sue casette monofamiliari, ha il suo lato positivo, visto che contempla uno spazio di terra coltivabile. Diamoci da fare, il prato all'inglese è inutile, mentre gli ortaggi sono utili al corpo, alla psiche e all'anima. La sovranità vitaminica deve diventare un obiettivo di politica economica. Ierla, Mona Lisa, Desiree, Primura non sono esotiche e improbabili conquiste giovanili, ma mi ricordano purtroppo soltanto l'agricoltura degli anni Ottanta. Sono varietà di cartufulas, come le chiamava mia nonna, cioè delle cose tondeggianti od oblunghe, commestibili, con vitamina C, che vengono sottoterra e non sugli scaffali della grande distribuzione come ormai credono quasi tutti. Il Kennebec è un fiume che solca lo stato del Maine per gettarsi nell'Atlantico. Per i friulani la Kennebec è la patata di affezione, quella con cui fare i macarons, grande eccellenza del territorio, tutta merito delle nostre donne. Nulla sarà come prima, è la banalità ripetuta in questi giorni, ma noi vogliamo i macarons come prima. E in questi giorni si sente anche tanto parlare e poetare di speranza. Le nostre donne che fanno i macarons sono un distillato di secolare sapienza, nonché di concretezza derivata da esperienze maturate in tempi grami. Esse pongono la speranza nell'orto. Quindi facciamo cavoli, altrimenti, fuori di ogni metafora, saranno cavoli nostri. Anche l'agricoltura del Friuli Venezia Giulia risente pesantemente della crisi sanitaria in corso. A Marco Malison, responsabile tecnico economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, chiediamo quali sono gli interventi più urgenti attesi dal settore. Ma è evidente che il comparto sta soffrendo alla pari di tutti gli altri e alcune misure trasversali già adottate dal governo, come per esempio l'estensione della cassa integrazione o il rinnovo delle scadenze fiscali, sono già una prima importante risposta. In questo momento la differenza può farla soprattutto il consumatore, come per le misure anticontagio, ancora una volta tutto dipende dal comportamento responsabile di ognuno di noi, visto che con tutte le precauzioni sanitarie del caso, le catene di distribuzione dei prodotti alimentari alimentari continuano a funzionare regolarmente, direi che non c'è proprio alcuna necessità di fare incetta di prodotti conservati come latte a lunga conservazione, scatolati, trasformati, surgelati, eccetera. Al contrario, bisogna continuare a consumare latte fresco, formaggio fresco, verdure e frutta di stagione, scegliere prodotti italiani, meglio ancora se di filiere locali, e questo è il primo passo, attenzione, tutt'altro che trascurabile, per sostenere la nostra agricoltura. E il secondo passo quale sarà? Allora, gli agricoltori che ti ascoltano sanno bene che questo è il periodo dell'anno in cui si concentrano le scadenze per le domande degli aiuti comunitari. Intanto abbiamo notizia che Bruxelles ha già dato l'ok al differimento delle domande PAC al 15 di giugno. E inoltre la ministra Bellanova ha dichiarato che la Commissione europea è disponibile a esaminare anche altre richieste presentate dall'Italia, come lo slittamento delle scadenze per le rendicontazioni dei programmi di sviluppo rurale e delle organizzazioni come nel mercato del vino. Speriamo vivamente che arrivino notizie a breve, perché ci sono scadenze imminenti, come per esempio le domande di nuove autorizzazioni vigneti, il cui termine è previsto per fine mese. Basterà mettere in sicurezza il settore? Questo assolutamente no. Immediatamente dopo, anzi direi contemporaneamente, bisognerà discutere sull'anticipo dell'erogazione degli aiuti PAC del PSR. Parlo in particolare delle misure agroambientali per l'agricoltura biologica e per le indennità compensative delle zone svantaggiate. C'è poi il tema della moratoria sui mutui, ancora tutto da chiarire nei tecnicismi, e l'urgenza di reperire risorse per far ripartire l'agriturismo, che in questo momento ha subito un colpo durissimo. In un momento così difficile per tutti è comunque significativo che l'Istituto Commercio Estero abbia già pronto un piano straordinario per quando l'emergenza sarà finita, che prevede il rilancio del Made in Italy nel mondo attraverso l'erogazione di assistenza gratuita a tutti i mercati esteri e partecipazioni gratuite a fiere ed altri eventi. Con Ennio Scarbalo che ci cura la rubrica sull'olio e sugli ulivi, oggi siamo arrivati alle scelte varietali. Dopo la preparazione del terreno, dobbiamo decidere le varietà di olivo da piantare, tenendo conto dell'impollinazione fra le diverse varietà di olivo. Semplificando, le cultivar d'olivo appartengono a due categorie, chiamiamole A e B. Le cultivar che appartengono alla categoria A impollinano le cultivar B e viceversa. Nel nostro oliveto ci devono essere almeno due cultivar che appartengono alla categoria A e altrettante alla categoria B, in definitiva almeno 2 più 2, meglio 3 più 3. A meno che l'oliveto non si trovi nelle vicinanze di altri impianti, in modo da sfruttare il polline altrui. Il polline d'olivo viaggia parecchi chilometri e rimane vitale. Ogni varietà produce un olio caratteristico con un suo determinato sapore, profumo e colore. Esempio, la cultivar bianchera è impollinata dalla cultivar maurino, che a sua volta è impollinata dal leccino, che impollina la cultivar pendolino e viceversa. Se aggiungo anche la cultivar grignan e gorgazzo, l'impollinazione è assicurata. Tenendo conto delle due precedenti considerazioni, il progetto del mio ipotetico olivo è quasi fatto. Ho la bianchera con maturazione tardiva, che assicura un olio piccante e amaro ricco di polifenoli. Ho il maurino, leccino, pendolino, cultivar a maturazione precoce, che producono olio profumato e gusto delicato. Ho il grignan e il gorgazzo che, con maturazione intermedia, mi danno quantità elevata di produzione, olio piccante e profumato con una buona dotazione di polifenoli. Con questo piccolo panorama varietale, dal mio oliveto posso ottenere un olio monovarietale di bianchera, un olio delicato con le cultivar precoci, un blender miscelando assieme l'olio di tutte le varietà. Altro particolare non trascurabile, soprattutto se ho un impianto molto grande, diluisco la raccolta tra metà ottobre e novembre. Naturalmente, oltre a queste culture, ce ne sono molte altre, ma bisogna tenere conto dell'adattabilità al nostro clima. Cultivar tipiche del meridione sono molto produttive, ma non adattabili. La scelta deve cadere su cultivar del centro Italia, già ampiamente sperimentate e divulgate in regione. Non è finita qui. Astone di olivo pronte all'impianto, da talea o da innesto. L'innesto si ottiene con un portinnesto selvatico innestato con la cultivar desiderata. La talea si ottiene facendo radicare direttamente i rami della cultivar. Se si verifica un periodo di freddo molto intenso, tanto da far morire la pianta, se in estate germoglia selvatico, se invece è d'Atalea germoglia gentile. Nei nostri climi è preferibile e meno rischioso piantare olivi d'Atalea. Con Franca Merluzzi, che ci cura la rubrica dei giardini, oggi parliamo di un giardino storico, con tanto di orto e frutteto a Valvasone Arzene. In attesa di tempi migliori per poterlo visitare, raccontiamo intanto la sua storia. Sì, parliamo di Villa Stoinov a Valvasone, con il suo giardino in corte, piccolo ma ben curato. Prezioso perché è uno dei giardini all'italiana che ancora si conservano in regione. Ha infatti aiuole contornate da siepi e ornate da sfere di bosso toppiato di gran bel effetto. Lo curano Sofia Stoinov e il fratello Stefano, che una decina d'anni fa hanno lasciato Milano e si sono trasferiti per scelta di vita in questo luogo del cuore. La villa venne acquistata dal padre di origini bulgare, Lyubomir Stoinov, la cui brillante carriera iniziò in Italia con una borsa di studio. Fu la nonna italiana, Maria Duglio, a creare nel 1936 il giardino, che ha alberi di pregio, tra cui la secolare Sofora japonica, pendula, la Magnolia grandiflora, l'Olea fragrans e gli aceri americani. Nella bella stagione il giardino era avvivato dai fiori bianchi di peonie, di rose e di ortensie. Unica eccezione, una rosa rossa coltivata dalla nonna, che nella serra e quando faceva caldo all'ombra degli alberi riuniva un piccolo cenacolo di colte amiche del luogo. Un giardino di villa dunque privato, ma in tempi normali è visitabile? Sì, su appuntamento e in occasione di giardini aperti. E speriamo che la manifestazione possa svolgersi come programmato il 17 maggio, quando aprirà anche la villa. Restaurata e a disposizione per l'ospitalità, mantiene arredi e decorazioni del primo Novecento. Uscendo verso la campagna si ha una bella sorpresa. Oltre alla rigogliosa Sally Holmes, rosa bianche dalle copiose fioriture fino al tardo autunno, si vedono l'orto coltivato in cassoni e il frutteto con antiche varietà. Sofia spiega che adotta metodi il più possibile naturali, secondo i principi dell'agricoltura biologica. Non utilizza pesticidi e per combattere gli insetti dannosi sperimenta macerati di ortica, di foglie di pomodoro e di aglio, con buoni risultati, dice. Si impegna con entusiasmo. Ortaggi e frutti a chilometro zero, per lei, cittadina milanese, sono una grandissima soddisfazione. Eccoci alla nostra pagina dedicata alle attività di ricerca sulle nuove frontiere in ambito agricolo zootecnico ambientale dell'Università di Udine. Grazie alla collaborazione di Stefano Govetto abbiamo di nuovo con noi Raffaele Testolin del Dipartimento di Scienze Agroalimentari e Ambientali e Animali dell'Ateneo del Friuli, che oggi ci parla di quattro nuove varietà di kiwi. Sono quattro nuove varietà che vengono fuori da programmi di incrocio e selezione che abbiamo fatto con dei privati, quindi dei consorzi di grosse cooperative italiane, ma anche consorzi italiano e greco uno e poi con una società sudafricana. Le nuove varietà sono una a buccia liscia e polpa verde, che è una novità da questo punto di vista, poi ne abbiamo tre con la polpa gialla, che una è già sperimentata da parecchio tempo e altre due le abbiamo appena registrate, e speriamo che entrino nel mercato a fare concorrenza ai kiwi neozelandesi. Era una coltura quella del kiwi in Friuli Venezia Giulia su cui si è puntato molto, poi c'è stato un arresto, adesso come va? Allora, il Friuli è una delle prime regioni che ha piantato i kiwi nei lontani anni 70. È andato molto bene per tanti anni, recentemente ha avuto alcuni grossi problemi, per esempio la batteriosi del kiwi, un problema che ha interessato un po' tutto il mondo. Tanto è vero che in Nuova Zelanda c'è una class action contro il ministero per aver lasciato introdurre del polline contaminato. E poi recentemente un'altra malattia strana, la moria del kiwi, di cui stiamo comprendendo adesso le ragioni. Però a parte questo si continua a piantare ugualmente perché i prezzi sono buoni. Quali sono allora le prospettive di una ripresa? C'è una ripresa, siamo in competizione tra l'altro con la Grecia che ci sta dando del filo da torcere e la prospettiva è di arrivare al 50% di kiwi verde e 50% di kiwi giallo. Senza considerare il rosso che ha creato molte aspettative, ma per ora le varietà non sono molto buone. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento attivo venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole alla Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 17,10 e 17,30 euro al quintale IVA esclusa. La soia tra 35,20 e 35,50. L'orzo con peso specifico 60,63 tra 16,30 e 16,80. Il frumento tra 19,40 e 19,70. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 60 centesimi e la soia di 2,50 euro al quintale. Scambi stabili all'ortofrutticolo di Udine con prezzi alternanti. In serata gentile le lattughe a Trocadero vengono quotate all'ingrosso tra 0,80 e 1,10 euro al chilo IVA esclusa. La scalola riccia tra 2,50 e 2,70. I finocchi tra 0,90 e 1,20. Il radicchio rosso tondo tra 0,80 e 1,20. Quello di Treviso precoce tra 1 e 1,50. Quello tardivo tra 3,50 e 4,50. Settimana con scarso prodotto e prezzi in calo nel settore della pesca per causa dell'epidemia del coronavirus. Alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi vengono quotati da 17 a 25 euro il chilo IVA esclusa, i latterini da 7 a 9, i gamberetti da 10 a 15, le sogliole da 6 a 19, le passere da 8 a 13 e le capesante da 10 a 12. Infine, andamento degli scambi oltre le incertezze nel mercato degli avicunicoli, rilevato dal CUM di Verona con i poli a terra pagati tra 1,16 e 1,17 euro il chilo, i tacchini maschi tra 1,41 e 1,43, le faraone tra 2,38, le anatre tra 2,53, i conigli oltre il chilo e mezzo tra 1,91 e 1,97, mentre il prezzo delle uova oltre i 73 grammi è di 17,50 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Osmer, Livio Stefanuto, sentiamo cosa ci riserverà il meteo nella settimana entrante. L'anticiclone, che è rimasto sull'Europa per tutta la settimana, oggi si è ritirato in Atlantico per il sopraggiungere di una seccatura dalla Russia. Dietro al fronte freddo affluiscono correnti molto fredde che riportano prepotentemente l'Italia in un clima pienamente invernale. Domani affluirà aria più secca da nord-est. Lunedì mattina avremo dunque cielo in genere sereno poco nuvoloso, ma in giornata ancora variabilità. Soffierà bora, sostenuta sulla costa, moderata in pianura. Saranno probabili gelate notturne anche in pianura, ma farà relativamente freddo anche di giorno. Martedì avremo cielo da variabile nuvoloso. Sul Carso non è esclusa qualche spolverata di neve nel pomeriggio sera. Di notte saranno possibili gelate in pianura nelle zone ripirate dal vento. Soffierà bora, moderata e fredda in pianura, sostenuta sulla costa. Mercoledì avremo cielo da variabile nuvoloso. In montagna sarà possibile qualche breve nevicata fino a 400 metri circa. Su pianura e costa soffierà bora moderata e fredda. Sarà ancora possibile qualche gelata notturna in pianura. Giovedì cielo prevalentemente coperto e sarà possibile qualche nevicata in montagna fino a fondovalle, mentre sulla costa continuerà a soffiare bora. Venerdì e sabato rimarrà cielo variabile, sempre con bora moderata sulla costa. Le temperature minime nella seconda parte della settimana rimarranno positive in pianura, e le massime sui 14 gradi circa. Come sempre, vi consigliamo di seguire gli aggiornamenti che verranno emessi nei prossimi giorni. Termina qui la puntata. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano dedicato alla luna, alle credenze e ai suoi influssi in agricoltura e non solo. Lune gnove, lune viere, nus traguardi di ogni fiere, ovvero luna nuova, luna vecchia, ci salvaguardi da ogni febbre, in questo senso febbre nell'accezione più larga possibile del termine, e mai più d'attualità è questo proverbio. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato?